Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutte e tutti, da Frey e Olga. Ben ritrovate con Van Loon, il vostro appuntamento con la storia, spesso purtroppo la storia contemporanea del sabato pomeriggio. In questa settimana andremo, tramite un libro, all'interno di una storia non troppo conosciuta e lo facciamo al ritmo di musica con un ospite che ce ne parlerà naturalmente. Vi portiamo un po' indietro nel tempo, negli anni 20, quelli che per definizione sono gli anni del consolidamento del regime fascista, il delitto Matteotti, leggi fascistissime, battaglia del grano, l'inizio di una certa, nel senso che in realtà non si realizzò mai la piena autarchia come la propaganda del regime vuole far credere, quindi una certa autarchia del prima i prodotti italiani, brutte assonanze col presente e sanzioni sulle importazioni. Interessante però è capire quale sia stato l'atteggiamento del regime nei confronti di una cultura da leggere, da vedere e da ascoltare che non fosse italianissima. Sono gli anni della narrativa erotico-avventurosa e del gusto dello scandalo che non impensierisce gli alti livelli del fascismo. Pare che ormai agli italiani la politica non interessi più. Anche il calvario degli antifascisti, dell'esilio, del confino, della prigione non sembra suscitare grosse emozioni. Al contrario, per esempio, della spedizione al Polo Nord di Umberto Nobile, del Grande Torino che vince gli scudetti, della Turandot scritta da Puccini e lasciata incompiuta dal Grande Maestro, del cinema che ormai è divenuto un mezzo di comunicazione di massa e non a caso proprio nel 1924 nasce l'Istituto Luce, un'unione per la cinematografia educativa, con il compito appunto di educare i nuovi italiani con i cinegiornali trasmessi poco prima dei film. Nel 1928 nasce invece l'EIAR, ente italiano audizioni radiofoniche, sul progetto del ministro delle comunicazioni Galeazzo Ciano, che ha anche in serbo di portare la radio in tutte le case degli italiani per accelerare il processo di alfabetizzazione e di soprattutto di educazione delle masse, portando il messaggio del Duce anche nelle campagne più remote. La radio però costa una fortuna, ma scuole, comuni, case del fascio ne possiedono una per ascolti collettivi. Sulla via Ardeatina ad 8 km da Roma, sopra la collina di Prato Smeraldo, una selva di 14 leggerissime torri sorreggenti una fantastica rete di cavi d'acciaio. Antenne e cortine radianti riflettenti caratterizzano il nuovo centro radio imperiale inaugurato dal Duce. Ecco, ci siamo appena ascoltati un piccolo estratto dell'inaugurazione del centro imperiale radiofonico a Roma nel novembre del 38. Ma entriamo nel vivo della puntata, parlando della relazione complicata del regime con la musica. La musica, come si sa, non conosce confini o dazi doganali. I fascisti autarchici potevano fare ben poco se nelle radio si trasmetteva a tutto volume quella assordante musica americana che veniva chiamata jazz e che faceva scatenare proprio tutti, con quel ritmo sincopato e ammiccante. Dopotutto i salotti della borghesia italiana non erano così diversi da quelli francesi o tedeschi, dove il jazz andava per la maggiore. Di certo una musica così amata non poteva essere fermata alla frontiera, non si poteva pensare di censurarla del tutto, perché come minimo ci sarebbero state delle rimostranze da parte di molti, e di certo il consenso ne avrebbe risentito. Il regime perciò dovette inaugurare un gioco di equilibrismo tra velata censura, negoziazione, spinte conservatrici e sostenitrice in un complicato valzer tra nazionalismo e cosmopolitismo. Ma quale fu l'impatto del jazz sulla società italiana? Per rispondere a questa domanda, sicuramente non di facile risposta, ci verrà in aiuto Camilla Poesio, ricercatrice dell'Università di Venezia, che ha scritto questo libro molto molto interessante, appena uscito per Lemonnier. Il titolo è Tutto è ritmo, tutto è swing, il jazz, il fascismo e la società italiana. Ma prima di incontrare Camilla, di ascoltare Camilla, noi ci sentiamo un bel pezzo swing. Thank you. Allora, bentornati sulle frequenze di Vallun, siete sempre con noi, è sabato pomeriggio e noi finalmente vi presentiamo l'ospite che è quella che ci aiuterà a spiegare qualcosa sul jazz e fascismo, è Camilla Poesio, che ha scritto questo libro interessantissimo appena uscito per Le Monnier, che si intitola Tutto il ritmo, tutto è swing, il jazz, il fascismo e la società italiana. Grazie Camilla per essere ai nostri microfoni questo pomeriggio. Grazie a voi. Senti, io entrerei subito nel tema perché abbiamo davvero tantissime cose da dire. Nel libro tu dici che in realtà non fai una storia della musica jazz, non è davvero la tua intenzione, ma tu vuoi fare una storia dell'ascolto del jazz. Ecco, ci racconti un po' che cosa significa? Sì, allora io non ho appunto voluto fare una storia del jazz perché non sono una musicologa e non sono una storica della musica, quindi non avrei, anche volendo, non avrei potuto fare una storia del jazz su cui già ha scritto in maniera molto attenta Adriano Mazzoletti. Quello che a me interessava era fare una storia dell'ascolto del jazz, anche sulla base di, seguendo insomma l'esempio di un grande storico che è stato Eric Hobsbawm, e il quale scrisse tanti anni fa una storia sociale del jazz. A me interessava evidenziare quello che è stato l'impatto del jazz sulla società italiana negli anni 20, 30 e 40, perché il jazz in quegli anni arriva in Europa e quindi anche in Italia non solo come fenomeno musicale ma anche come fenomeno culturale, un fenomeno che influisce nelle abitudini delle persone, nell'acquisto di beni di consumo, influisce nel rapporto con le generazioni oppure tra uomo e donna, influisce nei rapporti con la Chiesa e con le tradizioni. Quindi il jazz porta con sé tanti cambiamenti sul piano culturale e sociale, e in questo senso io ho voluto provare a scandagliare appunto la società italiana di quegli anni attraverso la lente del jazz. Ecco, infatti, a proposito, ma una domanda puramente storica. Mi sembra difficilissimo provare a carpire informazioni sull'ascolto del jazz, perché insomma io mi immagino che ci siano delle persone che ascoltano il jazz con i dischi, come hai detto tu, nella radio, ma per quanto riguarda le fonti, quali fonti hai utilizzato per cercare di capire appunto qual è l'ascolto? Sì, certamente questa ricerca, come dicevo prima, prettamente storica, si è servita di una molteplicità di fonti, che sono state fonti anche ufficiali, quindi le fonti del Ministero della Cultura Popolare, le fonti della Polizia, per cercare di capire quali sono state le politiche censorie del regime. Ho anche utilizzato fonti cosiddette soggettive, quindi di grande aiuto sono stati i diari e le testimonianze che sono conservate all'archivio diaristico di Pieve di Santo Stefano. Ho utilizzato anche delle fonti orali e quindi ho avuto la fortuna di conoscere un testimone di allora ancora vivente, Renzo Forcellini, che mi ha appunto così delucidato su come lui, giovanissimo padovano, è arrivato al jazz, fonti iconografiche, fonti di stampa, quindi una molteplicità di fonti, naturalmente fonti audiovisive, quelle insomma che si possono reperire in alcuni archivi o anche sullo stesso internet. Quindi insomma è stato un incrocio di fonti diverse per cercare di offrire un quadro il più possibile aderente alla realtà. Ecco Camilla, scusa, volevo chiederti una cosa, cosa ti raccontavano, cosa ti hanno raccontato queste fonti? Come veniva scoperto questo jazz e cosa, che effetto faceva sugli occhi? Anche citavi queste belle fonti che sono i diari, cioè che effetto faceva sui i giovani che lo scoprivano? Infatti sono appunto giovani i primi fruitori di questo genere musicale, e la maggior parte, insomma, di queste testimonianze scritte, orali, che ho potuto visionare o sentire, riferiscono di un mezzo in particolare, che è stato il cinema da una parte e, per i più fortunati, o meglio per i più ricchi, la radio. La radio infatti era un bene in Italia quasi di lusso, a differenza per esempio della Germania nazista, dove c'è anche una politica volta a rendere la radio uno strumento alla portata di più larghe fasce di popolazione. In Italia la radio costa moltissimo, quindi la possono avere in casa solamente le classi sociali più o meno agiate, e comunque la radio è uno degli strumenti attraverso il quale si ascolta per la prima volta la cosiddetta musica sincopata. Chi non ha possibilità di avere un apparecchio radiofonico a casa, anche perché al costo dell'apparecchio radio va aggiunto il costo dell'abbonamento all'EIA, all'Ente Italiano Audizioni Radiofoniche, dicevo, chi non riesce ad avere questo strumento ascolta per la prima volta il jazz al cinema. Quindi non si ammirano solamente le bellissime immagini delle grandi dive o dei divi americani, ma anche si ascolta tanta nuova musica per le orecchie degli italiani mai sentita. Ci sono poi anche altri canali di diffusione, che sono naturalmente le tournée delle grandi orchestre, oppure naturalmente i balli. E con la diffusione di alcuni balli come il tip tap o il foxtrot e il charleston, che i giovani italiani ascoltano e poi ballano questi nuovi ritmi. Ecco, a proposito di... noi dobbiamo ricordare che negli anni 20 e negli anni 30 c'è il regime fascista, un regime che si barcamena, diciamo, tra un'autarchia musicale, ecco, mettiamola così, e un nazionalismo, ma una certa apertura, perché inevitabilmente il jazz, che viene dall'America, porta il cosmopolitismo, quello che probabilmente il regime non vuole. Ecco, c'è una retorica del regime come propaganda che cambia tra gli anni 20 e gli anni 30? Se c'è, come? Sì, allora il regime si trova di fronte a un nuovo fenomeno culturale, e prima ancora che musicale. È un fenomeno che viene dall'America, verso cui e quindi dal paese capitalista per eccellenza. E sappiamo bene che il regime fascista attua una politica anche economica del corporativismo proprio come terza via per non adottare la forma capitalistica. Quindi il regime si trova di fronte a questo nuovo fenomeno e in un primo tempo lo osteggia abbastanza, ma lo lascia anche correre. Quindi possiamo notare tra gli anni 20 e i primi anni 30 un atteggiamento quasi denigratorio o snob nei confronti di questa musica, che quindi viene chiamata con i nomi più disparati, ma è soprattutto il tornante del 1935 che fa cambiare la situazione, perché nel 1935 l'Italia invade l'Etiopia e come conseguenza per questa invasione la Società delle Nazioni sanziona l'Italia con delle sanzioni appunto economiche, e quindi l'Italia si difende con l'autarchia, come hai detto tu, l'autarchia che non è solo economica ma che è anche musicale, il che significa dobbiamo sentire solo musica italiana. E da allora il jazz viene anche caricato di fortissimi accenti razzisti, e che poi sfoceranno anche in accenti antisemiti con l'emissione delle leggi razziali e l'avvicinamento poi alla Germania nazista. Quindi notiamo una evoluzione del regime fascista in senso anche censorio e proibitorio, fino ad arrivare poi all'entrata in guerra nel 1941 degli Stati Uniti. Allora la musica jazz diventa anche musica del nemico, non è più solo soltanto musica dei neri, degli ebrei, ma è anche musica del nemico, secondo la visione del regime fascista. Ecco, infatti, a proposito, nel 1938 arrivano le leggi razziali in Italia, ma c'è una storia particolare che tu racconti, cioè il caso del trio Lescano, perché non tutti sanno, ma questo trio famosissimo in tutta Italia, super famoso, delle star, oseremo dire, di allora, in realtà è olandese. Che succede? Il trio Lescano è oggetto di una politica discriminatoria. Sono tre sorelle che sono olandesi e che si chiamerebbero in realtà Lescan o Lescan, a seconda di dove si vuole mettere l'accento, e che diventano in un brevissimo lasso di tempo molto famose in Italia. Un trio vocale, un trio musicale vocale, appunto, e che tuttavia vengono, appunto, incappano in una situazione piuttosto difficile. Sono accusate da una lettera anonima di essere ebrei, quindi si fanno indagini su di loro ed effettivamente emerge che sono figlie di madre ebrea. Dovrebbero quindi lasciare immediatamente l'Italia in quanto ebrei straniere, e in loro aiuto accorre l'EIAR, l'ente italiano di azioni radiofoniche, perché non può permettersi di perdere il fiore all'occhiello della radio italiana, e quindi riuscirà con varie dichiarazioni ufficiali. C'è un intero fascicolo in archivio centrale di Stato a Roma su queste tre sorelle, su queste tre cantanti, in cui lei appunto riesce a salvarle e a non farle partire. A quel punto le autorità si interesseranno alla madre, che è appunto ebrea, ma anche in questo caso alla fine Leyer riesce ad evitare che la madre parta, facendola passare come la manager fondamentale che organizza, insomma, l'attività professionale delle tre ragazze, delle tre figlie, e quindi alla fine le sorelle Lescano sono salvate. Chi però per esempio non riesce a evitare le politiche censorie e proibitorie del regime è un inglese, Claude Benton, che dirige l'orchestra Eier di Torino e che invece, come dicevo prima, in occasione delle leggi, delle sanzioni all'Italia per aver invaso l'Etiopia, essendo inglese, Benton viene costretto a lasciare quasi dal giorno alla notte il suo posto di direttore dell'orchestra Eier, perché appunto è un cittadino appartenente a un paese nemico. Quindi, insomma, il regime fascista si fa sentire, anche se, a differenza del regime nazista, lascia degli spazi di azione perché il jazz, appunto, in qualche modo metta radice e sopravviva. Ecco, grazie Camilla. Noi, il nostro tempo in realtà è scaduto, ma ti volevamo chiedere, che tu sei in tour con il libro. Ci vuoi dire gli altri appuntamenti di novembre? Sì, molto, molto volentieri. Sarò la settimana prossima a Roma, alla Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea di Via Caetani. Poi, questo è il 30 ottobre, il 31 ottobre a Firenze, al Caffè Letterario delle Murate. Il 16 novembre a Milano, nell'ambito di Book City, e alla Casa della Memoria. Il 20 novembre a Venezia e il 22 a Porcia, in provincia di Pordenone. Beh, insomma, ci sono abbastanza date, sì, per vederti, e davvero noi consigliamo questo libro. Vi ripetiamo il nome, che è molto accattivante, che è Tutto ritmo, tutto swing, il jazz, il fascismo, la società italiana, edito da Le Monnier, di Camilla Poesio. Grazie Camilla. Grazie. E buon tour a questo punto, e noi ci sentiamo presto. Grazie. Grazie mille, arrivederci. Marabò, perché sei morto? Pane e vin non ti mancava, l'insalata era nell'orto e una casa avevi tu. Nemicine innamorate fanno cor per te le fusa, ma la porta è sempre chiusa e tu non rispondi più. Marabò, marabò, pane e vin c'è in coro. Marabò, marabò, marabò, marabò, perché sei morto? Pane e vin non ti mancava, l'insalata era nell'orto e una casa avevi tu. Quando tutto tace su nel cielo la luna fa, col mio più dolce caro miau chiamo Marabò. Vedo tutti i mici sopra i tetti passeggiar, ma pure loro senza te sono tristi come me. Bene, ringraziamo ancora Camilla Poesio per essere stata ai nostri microfoni. Le date le ha dette, ci sono diverse occasioni per andarla a vedere, purtroppo fuori da Bologna. Per chi ne ha la possibilità, consigliamo calorosamente di andare alle presentazioni. Noi abbiamo avuto l'occasione di assistere alla presentazione del libro qua all'Università di Bologna, organizzata dal gruppo Sul Filo del Tempo, di presentazioni di libri di storia, e andiamo invece a vedere quella che è un po' l'agenda della settimana, con alcuni appuntamenti. Allora, oggi innanzitutto c'è uno degli ultimi appuntamenti di Novecento Fest, il Festival della Storia Contemporanea a Forlì, di cui vi abbiamo parlato nelle scorse settimane. Poi andiamo al 31 pomeriggio, la Biblioteca delle Donne organizza un trekking urbano, il cui titolo è Cibo per la Mente, un trekking all'interno dei luoghi della cultura di Bologna, un bel appuntamento. Giovedì 1 novembre, per chi è in città, a XM24, in via Fioravanti, alle ore 17.30, viene presentazione del progetto Nicoletta Burbachi, Questo chi lo dice e perché, una guida per la fruizione critica delle fonti fuori e dentro il web. Un appuntamento molto interessante questo, che rivolgiamo a tutti gli appassionati e ai docenti e alle docenti in particolare, perché offre dei begli spunti. Beh, direi che per oggi è tutto, abbiamo parlato di molte cose. Buon proseguimento di giornata, a questo punto da Frey e Olga. Ciao! Tonda nel ciel di maggio come formaggio d'Olanda, monta la luna in viaggio e il suo raggio ci manda questo paesaggio. Che miraggio, che sogno, che sogno. sopra la luna d'argento. Dorme l'olandesino nel suo lettino piccino. Ogni cosa giace, tutto tace. Che pace, che pace. Parlano d'amore, tulli, tulli, tulli, tulli, pan. Delizioso cuore, tutti i sogni miei ti giungeranno e di me ti parleranno. I meravigliosi tulli, tulli, tulli, tulli, tulli, tulli, parlano fra loro i tulli, tulli, tulli, tulipan. Mormorare in coro tulli, tulli, tulli, tulipan. Oggi tu parli col suon che viene dal cuore, pieno di languore, nell'incanto.